Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata e soprattutto buon inizio settimana. Conoscere il mercato degli strumenti finanziari è sempre più importante per chi deve scegliere come investire i propri risparmi, soprattutto in un periodo come questo in cui non sono mancate le brutte sorprese e le difficoltà per tanti piccoli risparmiatori, con la crisi economica, le incertezze dei mercati e aggiungiamoci anche gli scandali finanziari che ormai tempestano la nostra attenzione, riempiono le prime pagine dei giornali. Diventa centrale in questi frangenti la figura del consulente, un intermediario esperto che sappia indicare i giusti investimenti anche in relazione ai rischi che si è disposti a correre. Ed è importante allo stesso tempo che non ci siano un divario informativo, una distanza troppo ampia tra l'operatore e il consumatore, in questo caso il risparmiatore, tra la persona e la banca. Oggi a Salva Danaio parliamo di questo divario e di come questo possa essere colmato. Ci sono diverse iniziative in questo senso, alcune più legate ad aspetti pratici e che sfruttano le nuove tecnologie e funzionalità, altre più legate agli aspetti umani e personali. Allora, con noi questa mattina Andrea Ragaini, amministratore delegato di Banca Cesare Ponti. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. E buongiorno e benvenuto anche a Luca Tenani, responsabile distribuzione Italia di Schroders, che è un grande colosso degli investimenti britannico. Buongiorno. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti i radioascoltatori. E appunto abbiamo invitato proprio queste due società, Ragaini e Tenani, perché le rispettive aziende hanno lanciato da poco due iniziative che hanno proprio l'obiettivo di ridurre la distanza fra il cliente e il consulente finanziario. Come vi anticipavamo, uno punta sullo studio del comportamento del cliente, l'altra iniziativa punta sulla tecnologia. 800 24 0024 il numero verde per le vostre domande, se volete intervenire in diretta per raccontarci qual è la misura della distanza che avvertite tra il vostro consulente finanziario, appunto, e la vostra famiglia. Avete mai pensato che a guidare le scelte di investimento che vi riguardano ci siano anche delle trappole mentali che vi condizionano? Oggi vogliamo elevare anche un po' il livello del nostro dibattito, introducendo anche i temi che studia la finanza comportamentale, che è quella branca della finanza che studia appunto la relazione tra i mercati finanziari e tutti gli attori economici, che nella fattispecie siamo tutti quanti, quindi nessuno si può esimere dal considerarsi come tale. Oltre al numero verde, ovviamente avete anche gli altri canali per interagire con noi. I vostri sms li potete inviare al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete interagire con noi anche sui social network, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Adesso la giornata di borsa. Come vi dicevamo nel corso del giornale radio, l'apertura della settimana è negativa fra i listini del vecchio continente, con l'unica eccezione di Francoforte, che segna più 0,12% in questo momento, mentre Parigi è negativa per lo 0,26%, Londra in ribasso dello 0,18%, Madrid perde circa un punto, Milano meno 0,8%. C'è stata stamattina una chiusura invece in deciso rialzo per Tokyo, che ha segnato più 2% all'indomani, come vi dicevo nel giornale radio, della riunione del G20, dalla quale non è emersa alcuna critica particolare sulla politica monetaria del Giappone, come forse qualcuno auspicava appunto che emergesse. Nessun riferimento alla guerra delle valute, nessun riferimento formale al termine del G20, perché è chiaro che i leader ne avranno parlato e come. E andiamo a vedere a Piazza Affari cosa succede. La Popolare di Milano più 1,72%, miglior titolo in questo momento, rimbalzino dopo le perdite abbastanza consistenti degli ultimi giorni per Finmeccanica, più 1,10%, Telecom più 0,8%, società al centro dell'attenzione del mercato per l'offerta arrivata per Telecom Italia Media da parte di Diego Della Valle, quindi parliamo della società che controlla la 7. In ribasso Monte dei Paschi, anche oggi, così ne approfitta per mettere a segno un altro calo di quasi 3 punti percentuali, un titolo che è scivolato sotto i 23 centesimi di euro. E poi nella Popolare dell'Emilia Romagna meno 2,29, Parmalat meno 2,21%, Unicredit meno 2 e nel Green Power meno 2 punti percentuali. Euro su dollaro a 1,3442. Ricordiamo che oggi è chiuso il mercato americano perché negli Stati Uniti si celebra il President Day. Questa è, per quello che riguarda la borsa, è tutto. Andiamo al tema di oggi. Oggi cerchiamo di capire come si può ridurre la distanza tra banca e cliente. È un lavoro tutt'altro che facile. Sentiamo. Conoscere il mercato degli strumenti finanziari è sempre più importante per chi deve scegliere come investire i propri risparmi. Soprattutto in un periodo come questo, in cui non sono mancate le brutte sorprese e le difficoltà per tanti piccoli risparmiatori, la consapevolezza è il primo passo per vivere con serenità le proprie decisioni in materia finanziaria. Da un lato è importantissimo affidarsi a un consulente, un intermediario esperto che sappia indicare i giusti investimenti, anche in relazione ai rischi che si è disposti a correre. Dall'altro, è importante che non ci sia un divario informativo troppo ampio tra l'operatore e il consumatore. Anche quest'ultimo è tenuto a diventare, nel suo piccolo, un esperto, o quantomeno un buon conoscitore della realtà del mercato. Questo divario, talvolta, può passare anche da una distanza fisica o comunicativa tra la persona, la banca e l'intermediario. Gli ultimi dati dell'Associazione Italiana Private Banking mostrano come dal 2010 siano in diminuzione le visite in filiale dei clienti interessati ad investire in prodotti finanziari, mentre risultano sempre più apprezzati gli incontri con un operatore presso il domicilio del cliente stesso. La tecnologia, inoltre, offre molti modi per accorciare le distanze, riducendo i costi e permettendo una comunicazione sempre migliore. Dalle teleconferenze alla condivisione di dati tramite internet, anche grazie alle app per smartphone e tablet, alla possibilità per l'utente di consultare in prima persona news e studi di mercato. Funzionalità che devono però anche andare di pari passo con una relazione personale, che consenta al professionista di mettere in guardia il cliente rispetto a scelte non ottimali per le proprie esigenze, prendendo in considerazione anche gli aspetti emotivi e i condizionamenti che influenzano i processi decisionali. Sempre nell'ottica di un supporto che renda più facili, ma soprattutto consapevoli, scelte che, al giorno d'oggi, sono tutt'altro che facili. 800 24 00 24, il numero verde se volete chiamarci, interagire con noi. Andrea Ragaini, amministratore delegato di Banca Cesare Ponti. L'iniziativa di Banca Cesare Ponti è quella che punta sulla tecnologia. Abbiamo fatto questa distinzione ad inizio programma, però il tema è anche, da quello che capisco, ridurre la distanza tra banca e cliente, ma cercarsi di tenersi stretta anche la clientela in questo momento in cui di nuovo forse la fiducia nei confronti dei mercati finanziari, degli intermediari finanziari, è tornata un po' a traballare. Forse anche il caso Monte dei Paschi non è che abbia contribuito in senso positivo, no, in questo dibattito. Sì, punta la nostra soluzione a mantenere fissa la relazione tra cliente e banca, quindi parte tutto dalla centralità della relazione. Il private banking ruota attorno al concetto di relazione. Quello che abbiamo cercato di fare è coniugare relazione con la tecnologia, quindi costruire un applicativo che consenta al cliente di mettersi in contatto col suo private banker, quindi mantenendo al centro la relazione, ma anziché incontrarsi in un salottino fisico, incontrarsi in un salottino virtuale. Quindi tramite web, con un applicativo che garantisce massimi standard di sicurezza perché la comunicazione è criptata e riservata, c'è un collegamento a due tra cliente e private banker. Quindi il centro è sempre la relazione, quello di riuscire in qualche modo a ridurre l'emotività dei clienti, a stargli vicino nei momenti più complessi. Come dicevi tu, l'andamento dei mercati in questi ultimi tempi non ha aiutato a mantenere serenità. E quindi l'applicativo è solamente uno strumento. Il concetto di fondo rimane la relazione. Certo, volevo spiegare anche agli nostri ascoltatori che magari non conoscono questa figura, che il private banker è qualcosa di molto simile al promotore finanziario. Non vorrei fare, appunto, magari dare delle definizioni non appropriate, però in realtà è quella figura che all'interno di una banca magari si occupa di profili di investitore un po' più patrimonialmente parlando interessanti. Sì, assolutamente sì, è la figura del consulente che segue gli investimenti del cliente. Il private banking in Italia a livello etimologico prevede soglie dimensionali superiori ai 500.000 euro. Poi ogni banca taglia un po' la clientela come ritiene. Noi cerchiamo di non avere soglie dimensionali rigide, di arrivare più sulle esigenze del cliente, seguire il cliente in funzione delle sue esigenze specifiche. Certo, anche perché non vorrei, appunto, dare l'impressione questa mattina che parliamo solo di una determinata categoria di risparmiatori, ma naturalmente poi, a parte le due iniziative che presentiamo questa mattina, c'è da dire che tutto il mondo della consulenza in questo momento si sta interrogando su come migliorare, appunto, il livello di assistenza nei confronti della clientela, ovviamente molto intimorita e scoraggiata. arrivati in questa fase. Luca Tenani, invece, andiamo a Schroders, questo grande fondo di investimento appunto britannico, questo gruppo britannico che molto felicemente opera anche in Italia. Voi avete lanciato Investimente e il vostro obiettivo è quello di andare un po' così a profilare i vostri clienti dal punto di vista del comportamento. Io ho già fatto anche il vostro test, poi racconta ai nostri ascoltatori che tipo di pazzoide è emerso, però insomma anche voi perché vi siete invece interrogati più sull'aspetto del comportamento del vostro cliente? Ma come dicevi prima tu, Deborah, è un'iniziativa di educazione finanziaria. Educazione finanziaria si può fare in due modi: su una dimensione oggettiva e razionale degli investimenti, che è quello di accrescere la consapevolezza sui mercati, sui prodotti, ma c'è un'altra dimensione che è quella più soggettiva ed irrazionale, che è insita in ogni investitore, che soprattutto in questo periodo di crisi finanziaria, diventa sempre più predominante. Quindi noi quello che abbiamo voluto fare con questa iniziativa di finanza comportamentale è portare la teoria della finanza comportamentale a terra e predisporre un sito www.investimenti.it, un questionario, un test molto semplice, molto intuitivo, speriamo anche divertente. No, visto che ci sono anche delle domande molto personali, quindi non ci sono delle domande del tipo come investi, come suddividi il tuo portafoglio investito, mattone, obbligazioni, assolutamente azioni. Ci no. sono proprio delle domande che attengono alla sfera personale. Attengono alla sfera al personale. Al carattere, anzi, non tanto alla sfera personale. Diciamo che attengono al carattere, attengono alle emozioni, ma soprattutto attengono a quelle che sono le trappole mentali in cui ogni investitore cade quando deve effettuare delle scelte di investimento, sia su un operatore professionale che il singolo investitore normale, insomma. Certo. So che è ancora abbastanza presto per poter dire che cosa emerge in prevalenza dai questionari appunto che sono stati compilati attraverso il vostro sito, ma è possibile invece fare un ragionamento, visto che comunque siete degli osservatori molto attenti del mercato, su quelle che sono state in tempi recenti le trappole mentali più ricorrenti da parte di chi investe? Beh, le trappole mentali che abbiamo inserito nel nostro questionario sono quelle tipicamente dell'effetto gregge, quindi si tende a seguire quello che il mercato, che tutti quanti stanno facendo in quel momento. Io mi ricordo che la prima volta che ho sentito parlare di questo effetto gregge è stato nel periodo della New Economy, negli anni all'inizio del 2000, quando tutti correvamo, io forse ancora non avevo ancora neanche due risparmi per poterlo fare, ma correvano dietro ai titoli della tecnologia. E non è stata l'unico effetto moda o l'effetto gregge, come si dice in maniera molto più scientifica. Un'altra trappola mentale è quella del home bias, cioè si tende a comprare quei titoli che più si conoscono, magari titoli nazionali della società che si è letto sul giornale. La Saipem, la Finmeccanica, esatto, della situazione, ecco, tanto per girare il coltello nella piaga. Piuttosto che comprare dei titoli internazionali. Un'altra interessante trappola è quella dell'avversione alle perdite. Quindi è dimostrato scientificamente che c'è una maggiore propensione all'avversione alle perdite rispetto all'avversione ai guadagni. Quindi ogni investitore ha un suo profilo che risponde a una sua particolare avversione alle perdite. Oggi la media nazionale è sui 2.5. Certo. Se tra l'altro gli ascoltatori che ci stanno chiamando vorranno sottoporsi anche magari a qualcuna di queste domande, ce le ha a disposizione Tenani? Ce ne abbiamo qualcuna? Magari recuperiamo il test al volo, quindi vediamo magari che cosa ci rispondono e se tendono anche, perché poi qualche volta quando queste domande vengono fatte dal consulente finanziario non si ha mica sempre spesso la trasparenza per poter dire e rispondere in totale, come dire, verità su certe cose. Ragaini, tra l'altro, è vero, lei cosa ne pensa rispetto a tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento? Allora, molto molto interessante, molto corretto, perché le scelte irrazionali sono quelle che molto spesso provocano gli investimenti sbagliati. Si tende a fare investimenti guardando lo specchietto retrovisore delle performance passate, quindi si tende a guardare ciò che è andato bene, a comprare ciò che è andato bene, difficilmente si compra ciò che è andato male per paura che possa andare male ancora nel futuro. Quindi le scelte emotive sono quelle che talvolta rovinano il portafoglio di investimento, e portare razionalità nelle scelte di investimento è quello che un consulente finanziario, un private banker, un promotore deve sempre fare. E sappiamo anche quanto sia stato difficile negli ultimi anni. Lo dicevo prima, non l'ho detto a lei Ragaini, ma a Tenani, ce ne parlava stamattina al telefono, e quanto negli ultimi tempi molti consulenti finanziari avranno sicuramente fatto degli errori, consigliato male la propria clientela, ma qualcuno si è dovuto anche improvvisare psichiatra, psicologo, assistente anche delle emozioni del cliente più che del proprio portafoglio. Certo, ma è proprio il tema centrale. Il consulente deve fare questo, deve essere consapevole del fatto che il suo cliente sia consapevole dell'investimento che va a fare, proprio per avere la serenità. Poi nel momento in cui le cose non vanno bene nella vita, le cose non vanno bene in ambito finanziario spesso, sia in grado il cliente di mantenere ferma la rotta e la barra del timone per guardare al futuro senza avere l'ansia da perdita che porta molto spesso a creare dei danni. Vi riporto uno studio fatto dall'FSA inglese e dalla Consob italiana che dimostra come la differenza tra la performance del mercato e la performance dell'investitore che ha comprato quel mercato sia massima proprio in Italia, con il 62% di differenza. Molto meno ampia quella americana, dove la differenza è solo il 10%. E come mai? E perché, a che cosa dobbiamo questi risultati? A che cosa dobbiamo? Proprio la componente emotiva. Cioè in America quando si compra una classe di investimento azionaria si è consapevoli che questa può oscillare anche molto nel tempo, ma si ha la consapevolezza di mantenerla in posizione per un periodo sufficientemente lungo. In Italia invece si ha questa tendenza molto emotiva che quando compro un titolo, una classe di investimento, e questa poi va male, l'ansia da performance negativa mi pervade, io vendo questa classe di investimento, salvo poi pentirmi di averla venduta e comprare quando, come diceva prima il collega, l'effetto gregge, tutti comprano perché questa classe di investimento torna ad andare bene. Allora questa ricerca continua di punto di minimo e di massimo in cui comprare e vendere portano a far sì che la distanza tra la performance del cliente e la performance del mercato sia massima. Tra l'altro una delle domande proprio nella test di investimento, e se non mi ricordo male è anche questa: quanto siete capaci di andare controcorrente rispetto ad una situazione in cui tutti si comportano nello stesso modo? Qualche volta una scelta contraria appunto può essere anche vincente. Devo già andare a fare la prima pausa, però magari se riusciamo forse riesco a sentire anche Nadia dalla provincia di Milano, la nostra prima ascoltatrice di stamattina. Nadia, buongiorno. Lei che tipo di risparmiatrice è? Ma io sono una risparmiatrice fai da te, nel senso che decido da sola in base alle informazioni che ricavo dai giornali, piuttosto che, perché proprio avendo una banca che, della quale sono cliente, avendo un rapporto con un funzionario della banca il quale comunque non è in grado di darmi nessun aiuto, faccio da me. Nadia, lei che cosa fa quando va in banca e chiede di incontrarlo? Questo qua comincia a sudare e... No, è una persona gentilissima, è anche un amico, assolutamente nulla da eccepire sulla persona. Il problema è, voi parlate di private banker per minimo 500.000 euro e tutti i poveracci, perdono, guardi, le che hanno meno di 500.000 euro, che cosa devono le assicuro che sarebbe stato il punto di partenza della seconda parte della trasmissione. Secondo lei io le avrei fatti andare via da qua senza gettare anche uno sguardo sulle persone che hanno dei portafogli più modesti? Ma stiamo scherzando. In ogni caso, Nadia, ci racconti. La lascio concludere. Io ho qualche cosa da parte, è frutto di anni di lavoro, che non sono 500.000 euro, ma sono un terzo di questi. Sto cercando di gestirli e ovviamente sono sofferenti dalle perdite che ci sono state, sto cercando di recuperare, ma devo dire che devo fare quasi tutto da sola, perché non vedo che non posso fidarmi. Allora io dico, ma è possibile che nelle banche non ci possa essere qualcuno, un funzionario che possa... diciamo così, a fronte di una provvigione che si va a pagare, di un fee, ma per l'amor di Dio, avere dare un orientamento professionale a noi, che almeno a me, che siamo ignoranti in materia, o quantomeno siamo dei fai da te. E quindi io trovo che ci sia una lacuna, soprattutto, ma una lacuna comunque c'è, perché io penso che sarebbe giusto, soprattutto in questo momento storico, che tutta quella serie di risparmiatori che non hanno la fortuna di avere quei soldi, che possono essere indirizzati per poterli tutelare anche un momentino. Certo. Perché è un lavoro da professionisti, non ci si improvvisa così. Certo, soprattutto questi piccoli importi più contenuti che oltre non devono essere raddoppiati, devono essere conservati, protetti per garantirci una vecchiaia serena. Nadia, io la ringrazio molto per la sua sollecitazione, che condivido totalmente, per cui da questo suo spunto, da questo suo stimolo partiremo nella seconda parte della trasmissione. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi parliamo ancora una volta dei nostri risparmi da un punto di vista un po' particolare. Intanto parliamo delle trappole mentali o comunque della filosofia che ispira generalmente la gestione del nostro risparmio e del nostro investimento. Seguiamo la moda oppure facciamo una bella chiacchierata con un consulente per spiegargli bene quali sono le nostre esigenze, o assumiamo un atteggiamento a metà? I comportamenti sono tanti, quelli sono i temi di cui si occupa la finanza comportamentale, ma insomma tutto questo per arrivare a dire che oggi l'industria finanziaria si sta interrogando con grande attenzione su quello che è il miglior approccio con la propria clientela. Noi questa mattina vi presentiamo due esperienze. Voglio naturalmente subito così chiarire l'equivoco che molti ascoltatori sollevano. Nessuno mi ha chiesto nella fattispecie di invitare queste banche perché voglio fare pubblicità, ma è solo per farvi capire che naturalmente non si deve andare in banca e per forza comprare l'obbligazione che questa ci propone. Ci si può anche guardare intorno e cercare di capire che ci sono anche intermediari che cercano di approcciarsi alla clientela in modi diversi, non solo con l'ottica di vendere per forza il prodotto di casa propria. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Abbiamo lasciato in sospeso la considerazione molto interessante fatta da Nadia, una nostra ascoltatrice di Milano, che dice: io sono una fai da te, intanto perché ho un risparmio molto modesto, che non è quello di cui si parlava nella trasmissione, però vorrei anche dire che non è che parliamo solamente di risparmiatori privilegiati, a noi interessano tutti quanti, giustamente. Però Luca Tenani di Schroders, la nostra ascoltatrice, chissà se avesse compilato il vostro test che tipo di profilo poteva emergere, perché forse con tutte le riflessioni rispettabili che lei ha fatto qualche piccola contraddizione forse emerge. Dice: io, il mio consulente in banca è una bravissima persona, ma non mi fido. Certo. Prima certo, cosa. Certo. E poi dice: io sono un ignorante, ma gestisco il mio risparmio con il fai da te. E di tutta evidenza che qualche contraddizione sia venuta fuori, però è anche vero che sono rispettabilissime le considerazioni che ha fatto Nadia. Credo che siano tantissimi purtroppo i risparmiatori che stanno facendo le stesse considerazioni. A me viene in mente semplicemente un suggerimento, se tale si può definire. I fondi comuni di investimento sono nati proprio per dare la possibilità anche a degli investimenti di importi più modesti rispetto ai 500.000 euro di cui si parlava prima, per poter accedere a dei mercati finanziari anche internazionali e molto diversificati, strumenti peraltro molto trasparenti. Quindi questa è forse la prima indicazione che mi sentirei di dare alla nostra all'ascoltatrice. Ragaini, lei voleva supportare Tenani, che cosa diciamo a Nadia? Che comunque, allora, più che altro, ecco, il tema che emerge, me lo stanno dicendo anche altri ascoltatori, cioè per chi ha dei portafogli più modesti, ecco, l'unico consulente che si merita è lo sportellista della banca, non ha dignità per avere una consulenza più di altro tipo, insomma. Allora, la premessa è che in effetti la signora Nadia parlato di un portafoglio che è di tutto rispetto, perché certo, stiamo parlando di 150.000 euro in questo momento. 150.000 euro sono tanti soldi, quindi meritano giustamente il rispetto dell'intermediario. La diversificazione tramite fondi comuni è molto, molto intelligente, cioè consente di riuscire a creare un portafoglio veramente diversificato anche con importi più piccolini, perché noi adesso parliamo di 150.000 euro, ma la diversificazione la possiamo fare anche con 20.000 euro di portafoglio, anche con 10.000 euro tramite i fondi comuni di investimento. Quindi il messaggio di fondo è proprio utilizzare tanto i nuovi strumenti o gli strumenti già in essere di società serie, che ce ne sono tante sul mercato, per creare un portafoglio diversificato. In banca mi sento di spezzare una lancia: non è vero che non ci sono consulenti finanziari esperti, ci sono i consulenti titoli, ci sono gli addetti che vengono chiamati in tanti modi, comunque seguono il risparmio dei clienti. Ecco, bisogna interloquire con questi consulenti, ricercando di avere un portafoglio diversificato, quindi non fermarsi al prodotto, ma arrivare all'esigenza specifica. E se insomma allo sportello si comincia a ricevere un atteggiamento di una persona che insiste per collocare l'obbligazione e basta, e allora lì è chiaro che uno si alza e se ne va. Se poi si ha la percezione che la consulenza che si riceve invece è più corretta e più qualificata, allora magari, ecco, ci si può fermare un po' di più. Chi sentiamo adesso? Sentirei Bruno da Prato, perché lo assumo come portavoce di tutta una serie di considerazioni che stanno arrivando da tanti suoi colleghi. Bruno, buongiorno. Buongiorno Deborah, complimenti, sono d'obbligo. Niente, la mia considerazione era questa, proprio perché io in questo periodo sono un piccolissimo risparmiatore e mi trovo nella situazione per la prima volta di dover fare un investimento. Si tratta di poco meno di 30.000 euro. E come è già venuto fuori altre volte, anche nella vostra trasmissione, la questione fra promotore finanziario e consulente indipendente. Io mi sono reso conto, ho toccato con mano, parlando con gli uni e con gli altri prima di prendere la mia decisione, che è assolutamente discriminante la cifra che si va ad investire, perché i consulenti indipendenti che ho interpellato io per seguirmi nel mio investimento mi hanno chiesto dai 400 agli 800 euro all'anno, a seconda del, diciamo, delle, di come mi avrebbero seguito, eccetera. E per il mio investimento così, diciamo, tra virgolette, limitato, è una cifra assolutamente fuori portata, certo, da sostenere. E mi sono, no, tra l'altro voglio anche specificare, Bruno, mi scusi se la interrompo, poi la lascio concludere, che il consulente indipendente non le vende dei prodotti, non le fa sottoscrivere dei prodotti che magari intermedia per conto di altri, le segue il suo portafoglio che lei poi dovrà sottoscrivere attraverso altri soggetti, per cui le fa un'analisi della sua situazione, le dice guardi questo va bene per te piuttosto che no, ma in ogni caso non veicola prodotti, appunto. Sì, chiarissimo. E difatti questo porta poi, oltre al compenso giustamente dovuto al consulente indipendente, a dover affrontare i cosiddetti costi di negoziazione con la banca o l'ufficio postale o altro soggetto. Quindi per una cifra come la mia e come penso quella di tanti altri piccoli risparmiatori, è obbligata la scelta del promotore finanziario, perché quasi sempre il consulente indipendente, per quanto buon professionista e il suo guadagno assolutamente giustificato, non è proponibile per piccoli portafogli. Posso dire, rispondendo a Nadia, e qui concludo, che cercando un po' in giro ci sono banche che offrono, magari a pacchetto, magari non, la possibilità di affrontare, insomma, di offrono una consulenza probabilmente adeguata, io questo poi lo verificherò, ma comunque ci sono banche che offrono magari, certo, conto corrente abbinato al deposito titoli e abbinata alla consulenza a dei costi per un piccolo risparmiatore come me sostenibili, assolutamente abbordabili. Bruno, la ringrazio. Allora, devo anche dire che oggi il mondo dei promotori finanziari è sicuramente molto cambiato rispetto al passato, Tenani. Oggi non ci si limita più ad avere delle reti che vendono esclusivamente i prodotti della società mandante, esatto. Adesso ci sono le strutture, le piattaforme aperte, le architetture aperte, il multibrand, chiamiamolo come vogliamo, ma un promotore di una casa di investimento, per la verità, ha la possibilità di diversificare le sue offerte. È proprio così. I nostri prodotti vengono collocati da quasi tutte le reti di promozione finanziaria qui in Italia, quindi da diverse banche, da diversi concreto, private bankers. E io credo che poi sia anche un po' sbagliato forse generalizzare. Io credo che i promotori finanziari, come dicevi tu prima, Deborah, si sia molto evoluto nel tempo, e se prima vendeva i prodotti solo di casa, adesso è diventato un vero consulente finanziario. Poi, per carità, ci saranno i consulenti finanziari più bravi e quelli meno bravi, ma quelli più bravi sono quelli che proprio puntano a mantenere la relazione con la propria clientela nel lungo termine, e sono quelli che noi speriamo, ad esempio, utilizzeranno il nostro portale, che non ha nessuno scopo commerciale, investimenti.it, per migliorare la relazione con, perché la propria clientela. Perché voi il test lo fate fare sia al consulente, e poi il consulente ha l'opportunità di sottoporre a questo test la propria clientela. Esatto, vero? Per noi il consulente è una figura centrale nella, quindi, promozione. Quindi poi che cosa emerge alla fine? Siete fatti l'uno per l'altro? Non lo so se sono fatti l'uno per l'altro, ma sicuramente il consulente avrà modo di non fare solo educazione finanziaria su mercati e prodotti, ma avrà modo anche di comprendere un po' meglio la psicologia del proprio investitore, del proprio cliente, sarebbe, e quindi proporre probabilmente i prodotti, certo, più adatti. Sarebbe veramente curioso sapere effettivamente se il consulente scopre delle attitudini del tutto inaspettate da parte della clientela che segue. Andrea Ragaini, cosa diciamo a Bruno da Prato? Diciamo quello che in effetti ha detto lui, e quindi lo confermiamo. C'è in giro tanta gente che è preparata e c'è in giro tanta gente che non è preparata. Quindi la cosa più difficile è andare a ricercare banche serie, reti serie, promotori seri che abbiano voglia di costruire un investimento che si basi però su un presupposto, quello di preservare il capitale nel tempo. Molto spesso si cerca un investimento per massimizzare il rendimento, e questo porta ad acquisire dei rischi decisamente superiori a quelli che si acquisirebbe normalmente. Quindi la prima, il primo suggerimento che noi sempre diamo quando appunto relazioniamo con questi ascoltatori che ci raccontano che hanno l'esigenza di individuare un buon consulente: il buon consulente è quello che che ti fa tante domande e che ti dice qual è il tuo orizzonte temporale anche dell'investimento, a cosa ti serve, sì, questo denaro che stai mettendo da parte. Assolutamente, lo scopo finalizzato dell'investimento, cioè a cosa servono questi soldi, a cosa serve questo patrimonio, che tipi di bisogni deve soddisfare, devo cambiare una macchina, devo comprare una casa, devo far studiare i figli. L'investimento fine a se stesso, investo 30.000 euro e vedo cosa mi dai, è sbagliato. È sbagliato perché porti inevitabilmente a intervenire in ambiti personali con delle scelte che non si conoscono, e quindi si cerca di dare l'investimento giusto come se esistesse un abracadabra che ci dà la formula vincente dell'investimento. Enrico da Roma, buongiorno. buongiorno a lei. Io ho un consulente in realtà, quindi non... e tra l'altro siamo diventati amici perché ci incontriamo da anni. Però noto una cosa, il consulente di solito, io ho investito non una grossa cifra, diciamo 100.000, adesso andrei a investire un altro 50.000, il consulente quando c'è una stabilità e quindi non si vedono rendimenti, anzi c'è una tendenza al calo, non pone alternative per un cliente che non ha un credo un ampio portafoglio. Quello che a me piacerebbe o che gradirei che il consulente anche in un momento in cui non ci sono movimenti significativi, io tra l'altro ho investito molto molto frazionato in tutto, fondi, BRICS, quindi è ben eccetera, diversificato come si dice in gergo, ben diversificato, ma non si muove niente, allora qualcosa bisogna fare o tentare di fare. Vabbè. Voglio dire, il consulente dovrebbe essere anche attivo, non solo passivo. E accontentarsi del fatto che adesso sia tutto stabile, no? Lei dice, insomma, potrebbe essere anche un pochino più audace, perché comunque la sua propensione è anche quella, Enrico, giusto? Non lo vede molto coraggioso, dice lei. Oggi da ammettere, però se ricade in quello è finita, insomma. Enrico, sentiamo un po' che ne pensano. Insomma, qua invece abbiamo un cliente molto attento, ha già fatto quello che deve fare, ha diversificato bene il suo portafoglio, Luca Tenani di Schroders, ma dice, insomma, io vorrei anche un consulente più coraggioso che mi dica anche magari tentiamo qualcosa in più. In realtà magari uno dall'esterno potrebbe dire, ma perché non ti accontenti del fatto che ti sta conservando il tuo capitale in un momento come questo in cui ancora l'incertezza la fa da padrona? E ritorniamo ancora una volta a quello che si diceva prima, il buon consulente è colui che sa ascoltare. La sua prima dote deve essere quella di ascoltare, quindi se ha ascoltato bene il signor Enrico da Roma, evidentemente è riuscito a proporgli un portafoglio che fosse allineato con quelle che erano le sue aspettative, le sue esigenze di rendimento, ma anche quello che era il suo profilo magari psicologico o psicoattitudinale dal punto di vista finanziario. Quindi probabilmente oggi dovrebbero ritrovarsi cliente e consulente, dialogare nuovamente e capire se ci sono le condizioni per rimodellare anche il portafoglio. Anche perché le esigenze cambiano ovviamente. Assolutamente sì. Enrico tra l'altro ha fatto un'osservazione piuttosto curiosa, lui dice in questo momento non si muove niente, in realtà Ragaini mi dica un po', ma queste borse per la verità stanno recuperando, Francoforte ai massimi dal 2007 così come gli Stati Uniti, zitte zitte invece le piazze finanziarie internazionali si sono rimesse bene in lena e stanno guadagnando anche un po', ma noi tutto questo non lo vediamo, ma perché non ce lo raccontate con un po' più di chiarezza? Allora, sicuramente le piazze internazionali nel mondo azionario stanno crescendo ormai da 5 mesi di fila e alcuni listini hanno raggiunto i loro massimi, come New York, ma come dicevi tu prima Francoforte è risalita tanto, ma anche Milano, nonostante la battuta d'arresto, è salita dall'inizio dell'anno. Quindi, in effetti, le borse salgono e, come ha detto il signor Enrico, l'obiettivo è quello di vedere un po' la realizzazione di una parte di guadagni nel breve periodo. Non è sempre così facile, non è sempre così immediato. Probabilmente molto spesso i risparmiatori cercano qualcosa che non esiste, cioè quello di riuscire a vendere nei momenti di massimo e a comprare nei momenti di minimo. Il 90% della performance di un cliente nel medio periodo, cioè a 5 anni, è determinata dall'investimento strategico, cioè a livello tecnico la definiamo l'asset allocation strategica, cioè quante azioni compro, quante obbligazioni compro e dove vado a investire in giro per il mondo. Non è fatta dal trading. Il trading è qualcosa che diventa molto intuitivo, ogni tanto si valuta il consulente su quante volte mi dice di comprare o di vendere. Ecco, questo, io ritorno al mio lavoro, che è quello di fare il private banking, è sbagliato. Cioè l'obiettivo è creare un'allocazione strutturale che risponde ai bisogni di investimento del cliente e mantenere la rotta il più possibile ferma, perché sennò il danno che si crea al portafoglio può essere elevato. Ragaini, ma se uno arriva con 2 milioni di euro da lei e con una strategia già ben impostata in testa e le dice io voglio fare questo, lei ha la capacità di dire di no? Allora, Debra, è difficile quando si parla di importi grossi, ma l'obiettivo è mantenere la strategia della banca ferma, quindi l'obiettivo è sempre quello di ascoltare molto, come diceva il collega prima, di impostare portafogli di investimento coerenti con i reali bisogni e poi la fiducia viene col tempo, non si compra con uno spot o con una pubblicità, quindi occorre avere una relazione il più possibile stabile. Quindi nel momento in cui la relazione è di lungo periodo, inevitabilmente il cliente ti ascolta più facilmente. E intanto ci scrive Marcella che ci dice ho 76 anni, da quando faccio da sola? signora molto attiva, i nostri complimenti. Conti di deposito fino al 5% e azioni di cui mi fido, mi trovo benissimo con la banca, non la cito ma lei ce la segnala, e i suoi consulenti ho sempre perso. Andiamo all'ultima domanda, ce la facciamo in un paio di minuti. Sentirei chi è che aspettava da un po', forse Claudio dalla provincia di Reggio Emilia. Claudio, rapidissimo se ce la fa, grazie. Buongiorno a voi, sono deluso dalle banche, io lavoro con due banche, gestisco il portafoglio di mia madre e il mio, un piccolo portafoglio titoli diversificato, non riesco ad avere consulenza dalle banche, anni e anni e anni si succedono i personaggi ma li trovo tutti professionalmente poco preparati. Altro bel problema, tra l'altro questo turnover all'interno delle banche è un'altra rogna non poco, no, non da sottovalutare, perché effettivamente nel momento in cui magari c'è quello che comincia ad avere una certa padronanza della situazione, a conoscere la sua clientela, e vai che la banca dopo sei mesi lo sposta. Allora, noi stiamo andando verso la chiusura, Tenani, e insomma qua allora la fiducia nei confronti della banca bancario, non è che raccontiamo qualcosa di nuovo questa mattina, non diciamo che ai minimi termini, ma sicuramente in una condizione di grande difficoltà. È vero, le banche dovranno ripensare il loro modello di servizio. Diciamo che le punte più avanzate sono quelle rappresentate dal private banking o dalle reti di promozione finanziaria, ma la banca tradizionale, quindi lo sportello, va probabilmente ripensato. Anche qui non faccio nomi, ma so che alcune banche stanno intraprendendo delle iniziative in questo senso, ci vorrà del tempo. Nel frattempo l'unico suggerimento che mi sento di dare è di, per chi è insoddisfatto della propria banca, di provare a vedere se tramite strutture di private banking o di promozione finanziaria riescono ad ottenere un rapporto più consulenziale. Oltretutto, prima di firmare qualunque tipo di contratto si possono fare chiacchierate con tante persone, per cui magari sicuramente troveremo anche la figura che a pelle fa al caso nostro, ma magari può anche non esserci particolarmente simpatico il consulente, ma possiamo anche individuare invece dei caratteri professionali che invece ci soddisfano. Non ho raccontato come è finito il mio stress test di investimenti, comunque da quanto pare sono una persona molto vigorosa, questo è lo stressometro, ma sono una che va poco in confusione, che va poco in tensione, che è poco triste, questo per raccontare anche come quanti altri aspetti avete valutato appunto nel vostro test, cosa che non è vera perché forse vi ho mentito, perché in realtà sono una che si intristisce, che si arrabbia come tutti gli altri. Una conclusione anche ad Andrea Ragaini rispetto a quello che abbiamo sentito questa mattina tra i nostri ascoltatori. Sicuramente che le banche devono fare molti passi avanti nella tutela di quello che è un patrimonio fondamentale del nostro paese, che è il risparmio privato. Con 3.800 miliardi di liquidità e 4.800 miliardi di attività reali, la straordinaria potenza di fuoco del risparmio italiano deve essere tutelato, e sentire tanti radioascoltatori delusi dal sistema e che non si fidano di quelli che sono i consigli delle banche è sicuramente un elemento di tristezza. Quindi da parte mia lavorare con grande intensità sul futuro del sistema. Mi fa piacere che quando intervenite nelle nostre trasmissioni effettivamente questo bagno di concretezza che ci permettono di fare i nostri ascoltatori permettono anche appunto questi bagni, anche delle riflessioni da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito appunto del mondo finanziario e del risparmio. Grazie ad Andrea Ragaini, Banca Cesare Ponti. Grazie a voi. E grazie a Luca Tenani di Schroeder. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Noi con Salva Danaio ritorniamo domani. A tutti buona giornata. Domani è il nuovo martedì del lavoro. Salva Danaio.